Abbiamo voluto chiamare un appello proprio qualche settimana fa, in contemporanea con le mobilitazioni che in Inghilterra hanno preso piede ormai da qualche mese, volendo riportare anche qua un problema che riguarda tanti e tante, che è quello degli aumenti delle bollette ormai sconsiderati, che stiamo vedendo e verificando ormai, che ci arrivano mese dopo mese. Da questo appello qua quindi siamo voluti partire provando a trasformarci in minaccia per chi? Per le multinazionali dell'energia, che in questi ultimi mesi hanno fatto più di 40 miliardi di extra profitti, che chiediamo che vengano immediatamente tassate al 100% e ridistribuiti alle famiglie che hanno bisogno in questo momento qua, i lavoratori e lavoratrici che devono scegliere se pagare un affitto o pagare le bollette. Abbiamo voluto quindi dare una scadenza al nostro appello, che si trasforma in minaccia, il 30 novembre. Per il 30 novembre stiamo raccogliendo adesioni attraverso un sito che è nonpaghiamo.it. Siamo arrivati a 33.000 adesioni oggi. L'obiettivo è arrivare a un numero un po' più considerevole, sarebbe di 1 milione di persone. Arrivati a questo obiettivo, noi vorremmo che il 30 novembre si trasformi in una data simbolo, cioè o questi 40 miliardi vengono immediatamente redistribuiti, quindi si parla di più o meno 700-800 euro a famiglie immediati, e che il nuovo governo prenda una posizione netta e chiara per far fronte a questa emergenza, cioè ristabilendo una possibilità che tutti e tutte questo autunno, questo inverno possano avere dell'acqua calda in casa, un riscaldamento e il blocco dei distacchi che stanno già avvenendo anche nella nostra città qua a Bologna. Altrimenti, se il 30 novembre non verremo ascoltati, dal 1° dicembre inizieremo con le autoriduzioni o con lo sciopero delle bollette. Ecco, una cosa che mi ha colpito nel vostro appello è che insomma identificate molto bene le cause di questa situazione che viene presentata come ineluttabile, invece voi sottolineate che è l'effetto di politiche neoliberiste. Assolutamente sì, sappiamo lo sannato libero mercato nella formazione dei prezzi che ha favorito la speculazione e imposto la bolla dei prezzi al di là degli scambi che però sono avvenuti effettivamente sui volumi. Questo per noi è il capitalismo, ovvero che la continua e spasmodica ricerca di margini di extra profitto che le imprese del settore dell'energia stanno portando avanti negli ultimi mesi, soprattutto in questo momento qua in cui la guerra e lo scontro bellico multipolare in Ucraina, ma anche l'incapacità della reazione nostra, unitaria, di tutta l'Europa, pacifista per la pace, queste per noi sono le questioni che hanno portato e stanno portando avanti questo aumento sconsiderato dei prezzi che proprio stiamo pagando tutti e tutte noi. A proposito di Europa, tu prima ricordavi che l'esempio è arrivato dalla Gran Bretagna, dall'Inghilterra con Don't Pay, ma si sta allargando anche in Francia. Abbiamo visto anche in Francia una mobilitazione anche di tipo diverso, i lavoratori delle raffinerie bloccare il paese per ottenere adeguamenti salariali al costo dell'inflazione, quindi sta assumendo le forme di un movimento internazionale? Ma noi speriamo che questo possa essere dall'Inghilterra stata una scintilla che possa divampare in tutta Europa, perché si sa bene che qua o la mobilitazione parte dal basso, o l'abbiamo visto anche in quest'ultima campagna elettorale, risposte dall'alto non ne abbiamo avute fino ad ora, non ne avremo nel futuro prossimo. Quindi dalla Francia all'Inghilterra, dall'Italia alla Germania, noi speriamo che dietro quello striscione, quello slogan che noi non paghiamo, possano convergere tante forze dal mondo del lavoro, dal mondo dell'ambientalismo, dal mondo del transfemminismo, perché una cosa per noi è certa, che queste lotte comunicano, stanno insieme, hanno degli obiettivi comuni, combattono una stessa battaglia, e dall'altra parte della barricata invece c'è un nemico comune, che sono le multinazionali. L'escalation della guerra la sta portando avanti e sta perpetrando i morti e nuove guerre e la possibilità anche dell'escalation nucleare, e quindi pensiamo che partendo da qua, partendo dai territori, partendo dalle possibilità che possiamo mettere in campo, non ultima il 22 ottobre a Bologna la manifestazione regionale insieme ai lavoratori e lavoratrici della GKN, insieme a tutti i mondi ambientalisti cittadini, insieme ad altre realtà e associazioni che hanno aderito, può essere un primo momento per aprire questo autunno che speriamo si basi sulle lotte, sulle rivendicazioni e su nuove possibilità per tante e tante che oggi stanno subendo gli aumenti.